che ho viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Mi chiedevo in questi giorni cosa occorra fare per entrare nel clubino di Freccia Rossa e si va nella stanza con i divanetti. Me lo chiedevo l'altro giorno, perché è circa un anno che prendo circa una volta a settimana, forse anche due, il treno, e quindi sono improvvisamente diventato un grande osservatore dell'umanità in treno. Prima lo prendevo più raramente perché andava di moda prendere l'aereo, adesso prendere l'aereo è perdere tempo, e quindi visto che anche Radio 24 proprio davanti alla stazione, appena finita la trasmissione parto con la mia valigetta di cartone, monto sul treno e si apre un universo. Mi diverto tantissimo. L'ultimo viaggio, quando tornai da Milano domenica, avevo dietro di me il grande Davide, l'eroe culturista dell'Isola dei Famosi. Stava con un altro suo amico coatto e stanno al telefono a raccontare le loro gesta televisive. Urlavano a gran voce, raccontavano quello che avevano visto, le mutande di questa, quanto era buona quell'altra, chiamando tutto il parentame. E naturalmente era uno spettacolino divertente, il volume della loro voce era altissimo. Si alzò mesta una signora che era in fondo allo scompartimento chiedendo loro di abbassare la voce, ma loro non avevano capito. Davide a un certo punto chiedeva alla moglie di portargli giù da casa i bonus per il taxi. Lui sarebbe arrivato con il taxi a casa e lei 2 ore prima doveva scendere e dice: portami i bonus per il taxi. E questa fu una cosa divertentissima. Questo per dimostrare che dentro il treno improvvisamente si spalanca un'altra realtà. Soprattutto adesso che i treni sono comodi, sono molto frequentati, sono diventato un mezzo di recupero rispetto ad altre possibilità di viaggiare veloce. No, in treno si sta bene. E c'è da osservare un'infinità di cose. Dai treni, ahimè, più problematici, quelli dei pendolari, quelli che tutti i giorni si vedono le stesse persone, fanno le stesse cose, seguono lo stesso percorso. Quindi c'è una sorta di consuetudine, vivono una seconda vita, nascono amori, ci si scambiano favori, si coltivano amicizie e si consumano adulteri. Sono sempre le stesse persone che per anni si vedono sempre nello stesso posto. È come vivere in realtà parallele. Beh, questa mattina mi piacerebbe riflettere con voi sull'umanità che viaggia in treno. Guardate che viaggiare in treno è un luogo dell'immaginario che è stato molto coltivato dalla rappresentazione, dal cinema, dalla commedia, dalla letteratura, ma in particolare questa mattina noi dedicheremo alla sanzonica dissertazione, cioè all'osservazione dell'umanità attraverso il cinema italiano, la fattispecie del viaggiare in treno. 800 24 00 24. Vi dico semplicemente che in mano ho ben 4 libri infami, perché uno vale mezzo, quindi ne dobbiamo dare 2 assieme, 2 al prezzo di uno. 4 libri infami che io regalerò a chi tra voi riuscirà in maniera migliore a rendermi l'onomatopea del viaggiare in treno. Voi che viaggiate in treno sapete esattamente qual è il rumore del treno, qual è il brusio del treno, qual è quell'eccitante scalpitare del treno, qual è quell'incessante ritmo che ci fa salire il sangue nelle vene, non soltanto nelle vene. Beh, riproducetelo. 800 24 00 24. Beh, allora se mi permettete, io sono l'onorevole Cosimo Trombetta. Trombetta? Sì. Trombetta, Trombetta. Questo nome non mi è nuovo. Beh, l'avrete letto sul giornale, vero? Io ho conosciuto anche suo padre, sa? Sì? Beh, non mi stupisce. Mio padre è talmente conosciuto. Chi è che non conosce quel trombone di suo padre? Bravo. No, no, che trombone. Bravo. No, scusate. Sia comodo. No, state comodo. Ma siete in equivoco, signore. Avete detto trombone. Scusate, se io faccio trombetta, è chiaro che anche mio padre faccia trombetta. Lo so, ma le volte. No, no, per carità. No, no, no, trombetta è padre, trombetta è figlio. Beh, a prescindere. Viceversa, mia sorella fa trombone. Ecco, fa trombone. No, fa trombone. Mi avete fatto confondere. Fa no, vi garantisco, non fa trombone. Si lasci servire da me e zia Andia, sua sorella. Cosa ne volete sapere voi, no? Io lo so, sono un uomo di mondo. Vabbè, ma non ho implica. Fatto 3 anni di militare a Cuneo. Vabbè, ma mi basti di questo. Permesso? Onorevole, sono a fare le sue valigie. Ah, meno male, grazie. Per cortesia, aiutatemi a sistemarle. E dove le mettiamo? Qui non c'è, noi siamo già costretti. Ma che costretti? Sistematele come volete. Che ne sistemiate? Una. Grazie. Sono tutte? Sono 4. Ah, benissimo. Grazie. Giuseppe Sanzonna, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo iniziato dal più fantastico e classico momento in scompartimento di treno, anzi un vagone letto, in cui Totò poi butta la valigia dal finestrino al signor Trombetta. Il film è Totò a colori e lo strepitoso duo Castellani, la spalla di Totò, prescelta in moltissimi film, e Totò stesso, sono due esemplari della convivenza coatta a cui ti costringe spesso il treno, no? Uno è l'onorevole, l'altro è questo roboante maestro Antonio Scannagatti, genio della musica inespresso. Quindi la convivenza, la collisione fra mondi diversi costretti a stare nello stesso abitacolo, il cinema come set che muove questa unità di spazio molto ristretta e costringe a dinamiche drammaturgiche che sono sempre cariche di esplosività, pirotecniche. In questo caso appunto abbiamo visto Totò che scherza sul nome di trombette di questo onorevole e quindi un po' costringe Castellani a lottare un po' con queste difficoltà, insomma, legate al nome. Cioè io mi ricordo, vedo che non è nell'elenco dei nostri spezzoni film, è molto meglio. Vediamo se ti riesci a ricordare. Un fantomatico viaggio aziendale in treno di Fantozzi che va con i suoi colleghi d'ufficio, in cui c'è uno che ha un grosso problema intestinale. Come Calboni ha la flatulatio putrex, quindi costretto, cioè, emette questa flatulenza e va in apnea tutto lo scompartimento. E la colpa viene data al povero Fantozzi, che è costretto ad andare nello scompartimento a sparire. Poi, noi abbiamo dato gli aspetti più sgradevoli, gli aspetti più spiacevoli del viaggiare in treno, ce ne saranno anche di piacevoli, anche da un punto di vista di sensazione sensoriale. Sentiamo Francesco. Francesco, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti. Sta chiamando dal treno? Io le sto telefonando dall'autostrada. Ah no, sentivo un rumore. Sono in A1 tratto Milano-Parma, vivo e lavoro a Parma. No, le telefonavo perché io la settimana scorsa con la mia ragazza abbiamo fatto 3 giorni di ferie a Trapani. Avevamo voglia di sole, siamo andati a cercare il sole, ovviamente abbiamo volato in aereo da Malpensa a Trapani. Quando siamo tornati, in una misera ora e 40, ci siamo trovati catapultati con 15 gradi in meno, a Milano pioveva, era bruttissimo, e facevamo questa banale, ma se vuole romantica, considerazione, che probabilmente il viaggio in treno avrebbe spalmato un po', cioè avremmo incontrato, come dire, avremmo più lentamente... saremmo passati più lentamente da questo sole, da questo clima mediterraneo a questo molto più grigio, più brutto, nordico, mentre l'aereo ci ha veramente in un'ora e mezza, in una lettura di giornale, ci ha catapultati in un'altra realtà. Quindi facevamo questa considerazione romantica, che comunque il treno sarà più scomodo. È molto più comodo il treno. Il treno, una volta che entri dentro il treno, ti siedi sulla poltrona, riscendi nella stazione d'arrivo. In aereo è una cosa massacrante. Gianluca, lei parlava di Freccia Rossa, le assicuro che la comodità è veramente opinabile su altri treni e su altre tratte italiane. Ah beh sì, quello è chiaro. Io sono molto fortunato, io faccio Roma-Milano e sto bene. Sì, questo esatto, me ne rendo conto. L'ho fatta anch'io quella tratta, ma ricordo quando ero studente universitario che mi portava giù in Calabria dove stanno i miei, le assicuro erano veramente i viaggi della speranza su dei vagoni, dei carri bestiame veramente. Beh, se ne parlo dei miei viaggi della speranza ai tempi del liceo. Altri ricordi. Il Foligno-Perugia, vero treno dell'amore e della speranza, le posso assicurare che sì, valeva la pena, ma il viaggio era molto massacrante. Grazie Francesco. Antonio, volevo dire una cosa, ah posso? sì prego veloce, sì. Abbiamo letto una cosa, ci chiedevamo dell'Oriente Express, siamo andati ad indagare, le tratte esistono ancora, sì. E le dico che è la tratta più affascinante, che è quella storica, insomma, narrata dall'Agatha Christie e così via, perché da Venezia a Porta di Istanbul costa 5.600 euro fare il viaggio in Oriente Express. Siamo documentati. Però si immagini cosa sarà mai, non so, ci saranno odalische in ogni scompartimento, profumi orientali, paradisiache essenze, unguenti balsamici, non so cosa vi fanno per questi 5.000 euro. Le stesse carrozze di un tempo, con tutti in legno, insomma, chi ha visto in TV, io l'ho solo visto in TV, con dei menù neanche poi così particolari, ci si ferma anche in degli alberghi, dura 5-6 giorni il viaggio, 5.600 euro, a differenza invece del viaggio in Transiberiana, che è altrettanto romantico, che costa credo un ventesimo. Vedo che si sta documentando euro. Con la sua ragazza dopo il viaggio a Trapani, vi state preparando al salto di qualità, mi fa piacere, bocca al lupo. Antonio. Buongiorno Nicolini. Sì, Nicolini. Però... sarà suo zio, mi chiamo Nicoletti. Nicoletti, scusi, mi perdoni. Prego, fino a un certo punto, vediamo. Io ho viaggiato molto in treno, viaggio molto in treno, e devo dire che il treno, quando ci viaggi tanto, diventa un po' come una seconda casa. E abbiamo già detto. Ti attrezzi, la particolarità le riconosci le persone che viaggiano tanto in treno, perché si attrezzano per viaggiare in treno. Da cosa le riconosci? Le riconosci da come sistemano le loro cose sul treno, da come si accovacciano nella loro culla, diciamo, che li porta poi a destinazione. E anche dalla scelta salatini, gli snack salatini o dolci. Sì, esatto, sa benissimo che gli orrendi salatini col retrogusto di aglio possono rovinare una giornata. Sì, esatto, era molto meglio quando davano solo il giornale, no? Sì. È una cosa... Io tremo molto quando c'è la scelta del salatino, quando ci sono i bastoncini, quelli lì, salati tanto, ma quando ci sono le pizzettine con l'aglio, lì veramente la fame, se anche la fame è tanta, conviene resistere. Sì, cioè, conviene resistere in effetti. E comunque io devo dire che mi sento un po' a casa quando vado sul treno, e poi si assistono a scene fantastiche. Io sono riuscito a fare una previsione su quello che sarebbe successo a un nostro politico solamente ascoltandolo in treno, vedendo quello che faceva. Sì, la gente urla molto in treno, perché tutti telefonano naturalmente. Esatto. Io so le vicende intime di signore, so gli affari di tanti signori, i palpiti d'amore di ragazzini, si sa di tutto. È una cosa fantastica sotto certi punti di vista. Cioè, alcune volte leggi il giornale e dici no, ascolto, perché è più bello. La chiacchiera di Davide e il suo amico con tutti i parentami nelle 3 ore di viaggio Milano-Roma è stata fantastica. Ho avuto delle informazioni del dietro le quinte dei programmi dell'avventura inenarrabili. Bene, grazie e andiamo avanti. Oh, aspetta pure a me. Questa è l'ora più balorda. Questa luce maledetta. Che ora è? 6:48. Portiamo ritardo? Capirai, mezzo minuto. Ma che fa quel disgraziato? Ma che fa? Presto, dai! Ma che è successo? L'ho visto troppo tardi. Uscivo dalla curva. Tragedia, quel ferroviere creato il disastro favoloso, terrificante. Questo è un film tragico, vero Sansone? Sì, il film è Il Ferroviere del 1956 di Pietro Germi, interpretato dallo stesso Germi, che con le sue tonalità fra Capra e De Amicis, ma anche con la sua ruvidità sia come attore che come regista, tratteggia come possa anche essere lavoro tragico. È un film del genere scarnifica gonadi, nel senso non si può guardarlo con le mani in tasca, ecco. Anticipa anche certi estremi del lacrima movie, c'è molta intensità lirica, melodrammatica ovviamente, e in questo film lo affianca Saro Urzì, che era l'attore feticcio di Germi, quello molto pingue, e insieme appunto il fatto di incappare nella tragedia involontaria, nell'assistere al suicidio di questo appunto uomo che si scaglia sotto il treno, per Germi, per il ferroviere diventerà una tragedia, non poterne uscire, e quindi tratteggia questo mondo in cui c'è la fatica del lavoro, c'è il treno è anche ossessione, diventa il non poter più esercitare più il suo mestiere, lo distruggerà. Quindi Germi racconta. Beh, oddio, qualche motivo infinitesimale c'era, che ha fatto un massacro, quindi lui lo eviterà poi il massacro. Lui uccide solo questo suicida che si scaglia sotto il treno, e subito dopo evita per un lampo, per un pelo, grazie al suo amico, evita la tragedia. Però da quel punto viene declassato, viene motosega soltanto il suicida, poi voleva buttarcisi lui alla fine. Quello c'è il senso di colpa atavico che lo devasta, lo corrode. Beh, vorrei risollevare un attimo il morale, perché vorrei ricordare che il viaggio in treno è qualcosa di fantastico, qualcosa che cambia la vita. Ad esempio, l'ascoltatrice Giulia non sarà mai più quella di un viaggio che ha fatto recentemente in treno. Giulia, buongiorno. Ah, buongiorno. L'è cambiata la vita lei? No, io volevo intervenire perché, premetto che prendo spesso il treno, 2 volte a settimana almeno, quindi principalmente odio il treno, però ogni tanto mi regala delle emozioni. E quindi qual è l'emozione che le ha regalato? L'ultima? L'emozione è sono tornata dalla tratta Milano-Padova e a Treviglio sono saliti gli alpini. Quanti erano? Erano mezzo vagone di alpini. Quindi lei sola, indifesa, tremante e palpitante in una vagonata di alpini pieni di grappa e di vino. Sì, ma la cosa bella è stata che c'era un ragazzo che andava su e giù dal vagone cantando viva gli alpini, a me piace bere, sono felice quando bevo. E dopo aver mangiato e ben bevuto, non gliel'ha detto? No, lui continuava a urlare cantando questa canzone, viva gli alpini, a me piace bere, sono felice quando bevo, e tutti quanti facevano i commenti, e infatti ho anche ripreso col telefonino perché faceva troppo ridere. Ma lei non ha avuto un minimo di corteggiamento o poi... Niente. No. Erano talmente briachi e fradici che ormai non avrebbero distinto lei da un sedile vuoto. Sì, infatti, però simpatici. E anche un altro. Beh, dov'è l'emozione, scusi? È un'emozione perché c'erano tutti quanti i commenti. Di solito sali in treno, ognuno si fa i fatti propri. Vabbè, una vagonata di avvinazzati, divertente. Divertente, per una volta il viaggio è passato veloce. Sono contento, Giulia. Ognuno si accontenta come può. Giuseppina. Sì, buongiorno. A lei che è successo? Ancora nessuno mi ha fatto rumore del treno, no. I libri qua. Vuole allora, attentare lei? Volevo solo dire che uso tanto il treno perché lavoro in macchina tutto il giorno e per me è comodo, ma soprattutto perché in quanto moglie di dipendente delle Ferrovie dello Stato viaggio gratis. A lei sale, scendo, sempre invidiato gli ex trenisti. Perché un'amica mia aveva il padre trenista, dice mio padre è in pensione, la mattina va a Termini, sale su un treno, poi scende, poi va, torna la sera che ha girato tutto il giorno, qua che bello, quanto mi piacerebbe. E allora le dico, il fatto è questo, che quindi me la posso tirare, vado in prima, chiaramente gratuitamente. Pensi un po'. E poi? E allora mi diverto a riconoscere nelle persone che salgono in prima quelle che come me viaggiano gratis da quelle che pagano un regolare biglietto. Ah, perché ci sono molte persone che viaggiano gratis in prima? Sì, tutti i dipendenti dello Stato e quelli delle ferrovie. Ah, quindi lei mi dà una informazione. Le prime classi sono pullulanti di dipendenti delle ferrovie. Allora, a me capita di essere in uno scompartimento. Io viaggio generalmente sugli Intercity e quelli Plus, con gli scompartimenti da 6, con le porte che si possono chiudere. Ah, io quelli non li prendo più da anni, esistono ancora? Sì, sono belli, sono rifatti. Ma no, c'è quella puzza di piedi terribile dentro che rimane attaccata alle poltrone. No, ascolti, sì, le poltrone di velluto sono la verità. Un po' merce. Sì, infatti scelgo dov'è? La prima già a differenza della seconda. Però le dico, vi capita di essere, per dire, nello scompartimento siamo in 6 e nessuno di noi ha il biglietto perché tutti siamo parenti di ferrovieri piuttosto che... Beh, non è una bellissima cosa questa, però... E cosa, cosa fate? Fate dei cori, cantatevi? No, assolutamente. Vi levate le scarpe? Ci riconosciamo dal fatto di avere questa tessera e allora si chiacchiera e si dice ma mio marito lavora, il mio lavora, su e giù. E quindi niente. Quindi nascono anche storie adulterine fra mogli di ferrovieri? No, che gusto c'è. No. Però gliel'ho detto, il modo per riconoscerci è che le persone che pagano il biglietto regolare hanno un numero di prenotazione del posto e quindi li vedi che si fermano davanti alle porte, cercano di capire qual è il numero della carrozza e del posto. E voi vi sedete dove capita? Esatto, poi chiaramente se qualcuno vi alzate, ha il posto prenotato, certo. Molto chiaro, Giuseppina ci ha dato un lampo informativo su quelli che sono gli usi di dipendente delle ferrovie. Nei treni italiani si vedono, festeggiano, vanno avanti e indietro. Quindi questo ci fa piacere. 800 24 00 24. Ho ancora tutti e quattro libri infami intonsi e non dati, ma se nessuno fa rumore del treno non li darò a nessuno. Melog 2.0. Che dammi sta cesta? E che ne volete fare? La devo sequestrare, è il corpo del reato. E voi volete pigliare la cesta mia? Sì, signore. E io come lo vendo il caffè? Tu non lo devi vendere più il caffè sul treno. E non fa vedere che non capisci. Ma io come mangio? Non mangi. Ah, mi sto di giù. Si capisce? Me la vuoi dare, sì o no? E va bene, pigliatemi la cesta, per favore. Vi serve qualche altra cosa? Faccia fare l'incasso. Eccolo qua. Le tutta la notte. No, maresciallo, io quello me l'ho guadagnato, non l'ho rubato. E la legge? Ma quale legge? La legge di chi? La legge si ricorda di me, solo qua il matto arresta. Maresciallo, non scherziamo, pigliatevi pure la vista degli occhi, ma non mi punite sul denaro, il denaro fa male. E io lo devo sequestrare lo stesso. Ah, me lo dovete sequestrare? Eh sì, purtroppo sì. E va bene. E allora se l'incasso lo volete per forza, io ve lo do. Ma 800 24 00 24, Caffè Express, il povero Nino Manfredi, un disgraziato che vende abusivamente il caffè sul treno e viene sempre inseguito dalla polizia ferroviaria, una lotta alla sopravvivenza. Giuseppe Sanson, oggi siede molte... si vede personaggi tipo diverso. Uno sale nel Frecciarossa a stazione Termini, arriva subito la zingarella che ti mette il bigliettino sul tavolino, le altre con il bambino in braccio che taccheggiano i poveri stranieri. Improvvisamente c'è una salita di mamme con i bambini in braccio che scendono subito quando parte il treno. Nessuno dice nulla. Invece di cosa si tratta nel caso di Manfredi? Manfredi vende appunto il caffè su questo tratto che da Vallo della Lucania porta a Napoli, quindi ci descrive questa umanità notturna, questa umanità di pendolari che si spostano. È un'incursione molto viscerale fatta da Nanni Loi in questo mondo. Una delle cose più toccanti è come Manfredi riesca a riconoscere dal solo rumore, dal solo alcuni bagliori che vede fuori, ogni centimetro di questo tratto. E racconta un'umanità variegata fatta di ladri notturni. Per esempio, un'altra cosa che accade spesso in questi spazi coatti dei treni. Sì, i vagoni letto ancora avvertono, attenzione, chiudetevi dentro. E l'irruzione notturna, ciò che può apparire, ciò che può succedere nel cuore della notte, magari anche con spray che addormentano. In questo caso c'è uno strepitoso Caprioli e Mezzogiorno che fanno i ladruncoli e lui invece... è un clandestino perché non paga il biglietto, Manfredi, però sostanzialmente è una persona onesta, che ha questo braccio malandato che, su cui ricama storie. Era una notte buia e tempestosa, è un continuo tessersi di storie, e infatti il treno è uno spazio narrativo anche di incontri diversissimi, cortocircuiti narrativi che non accadrebbero. Infatti guarda, nessun su luogo. Facebook, sul profilo Facebook in questo momento mi stanno arrivando grandi storie di treno, e Chiara mi dice: una volta durante un viaggio a Roma-Milano ho conosciuto un ragazzo, abbiamo iniziato a parlare, ci siamo raccontati praticamente la vita, abbiamo finito quando siamo scesi a Roma, abbiamo deciso di rivederci, ma quando ci siamo rivisti non abbiamo più nulla da dire, non abbiamo spiccicato parola, fuori dello spazio magico narrativo non si racconta più nulla. Anche Irene, in 5 anni, 15 giorni, Padova, Pisa e ritorno. Ho letto romanzi interi, fatto grandi sogni, conosciuto sconosciuti di ogni città e nazione, imparato lezioni di vita, sperimentato la legge dei 6 gradi di separazione e soprattutto osservato la nostra umanità. Elena, che abitava in centro storico, adesso fa la pendolare. Mara, eccomi in treno. Insomma, le donne esplodono il romanticismo. A proposito della capacità e della volontà di raccontare, di narrare, di scrivere, di affabulare dei nostri ascoltatori, vi avevo annunciato ieri ci sarebbero state alcune sorprese. Saranno sorprese, millanta sorpresa vagoni da qui al Salone del Libro. Noi saremo già da domani sera, quindi preparate i comitati di accoglienza. Arriviamo verso le 18 di sera, avremo stanchi, sudati e depressi, quindi spero che il braccio torinese sia degno del nostro viaggio. Però avevo detto che sarebbe accaduto qualcosa. Vi avevo detto: per molti ci sarà un'estate felice, non ci sarà Sagra dell'Arrosticino, festa del Santo Patrono in cui voi non potrete portare i vostri libri, potrete presentarli, potrete fare delle graziose seratine culturali. Perché? Perché un melogmane che gestisce una stamperia di libri online che si chiama telostampo.it, beh, il signor Telostampo ha detto che regalerà 50 copie lussuosissime di libro a 5 ascoltatori degni di questa gratificazione. Quindi 5 di voi, probabilmente anche molti o qualcuno o forse nessuno di quelli che hanno già raccontato le loro storie, la storia del leopardo, la storia delle 5 vecchie che sognano l'uomo nudo sul divano, qualunque di queste storie potrebbe entrare finalmente a far parte di una piccola raccolta di 50 libri. 50 libri, dite che ci faccio 50 libri, ma fiore di autori che vengono recensiti sui giornali si venderebbero la sorella per aver 50 libri venduti. Voi ce l'avete regalati, cosa volete più dalla vita? Quindi Telostampo stamperà 50 libri a 5 ascoltatori, ma è soltanto la prima delle tante sorprese. Scete, pure, ci siamo a Milano. Ehi, su, Luca, oh, dai. Ci siamo. Finalmente. Vieni, va. Rocco, Ubanar. E ricordati la valigia, dai. Poi Luca, che tu? L'avete pigliata tutta la roba. Tristerrima colonna di film, questo è Rocco e i suoi fratelli, il viaggio degli emigranti verso il nord. tristissimo e poi sarà tragicissima alla fine, quindi questo viaggio li porterà verso una sorta di nemesi quasi epica, moriranno scannati la madre, i figli, un bel filmetto. Un bel filmetto leggerissimo, però è utile per noi per farci illustrare come appunto in un paese come l'Italia una notte in treno possa portarci da una dimensione all'altra, dal sud estremo al nord spavillante della Milano rutilante, piena di colori come la musica di Nino Rota. Beh, anche Totò e Peppino quando arrivano con le pellicce a Milano nella Mala Femmina ci vanno in treno naturalmente. Certo, perché il treno appunto porta a nord e porta in un'altra dimensione e ne fa percepire anche abbastanza la durata, perché il viaggio in aereo è un lampo, ma passare una notte e anche trasfigurare, cioè affondare nella notte, il viaggio al termine della notte seliniano che ti porta poi al nord, in una dimensione completamente, all'epoca, poi negli anni 50, radicalmente diversa. Era proprio una... Era una vera avventura il viaggio, oggi non te ne accorgi nemmeno. Aldo, buongiorno. Aldo? Sì, buongiorno, sono qui. Stai in treno? Mi sente? No, sono in camion. Ah, bene, camionista e con il treno che ha a che fare? No, ho un grosso rapporto io col treno, perché avevo un mio nonno che era ferroviere, mio papà macchinista mancato, allora sono cresciuto sentendo lei ha sdirazzato, però è passato dalla rotaia alla gomma. Sì, purtroppo io avrei preferito fare il pilota oppure il macchinista, non sono riuscito, allora mi sono contentato del camion. Però ogni tanto capita di lasciare il camion in giro per il mondo e di tornare a casa in treno, e lo faccio più che volentieri. E in questi viaggi ho trovato diversi personaggi simpaticissimi che veramente me li ricordo ancora a distanza di anni. E questo le dà un tuffo al cuore. Francesca è un capotreno di 29 anni. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sta sul Frecciarossa? Sono sul Frecciarossa. Allora forse siamo incontrati. Ci sono delle deliziose capotreno. Adesso i vestono da carabinieri, poi è ancora più bello. Sì, è giusto per fare figura. Ma perché aveva fatto la divisa da carabinieri? Questo non lo deve spiegare. Ma questo non lo posso spiegare perché non lo so spiegare, certamente. Però sono carucce, sono carini. Sono belle, feticismo, il feticismo. Complimenti. Allora. Dunque, io sono su Frecciarossa adesso, ma ho cominciato 7 anni fa e il mio primo impatto è stato proprio quello di un film, perché nel mio primo viaggio di affiancamento sono salita su un treno che passava da Roma Tiburtina, veniva dalla Sicilia, e la mia prima immagine è quella di una donna seduta per terra nel corridoio, vestita di nero, chiaramente siciliana, con i tratti tipici siciliani, e il bambino al seno ad allattare. E perché si era seduta per terra? Perché non c'era posto, aveva fatto tutto il viaggio la notte in treno lì. E nessuno faceva sedere la povera mamma allattante? No, anche io quando ero incinta nessuno mi ha fatto mai sedere in metropolitana. Sì, sono dei cafoni. Oggi ho visto una scolaresca nella metropolitana, tutti i ragazzini di scuola media, tutti seduti per terra, e vecchietto, tra cui me in piedi, rischiando la vita. Però sa, è un mondaccio. Quella ormai è la normalità. Comunque sono grato, perché o lei o una sua collega una settimana fa mi ha abbassato l'aria condizionata, che stavo morendo di freddo. Mia collega sicuramente. Lei non è mai successo. Io l'avrei riconosciuta. Va bene, mi ci vedrà, perché da domani ci sono. Senta, come fa a ascoltare Melog dalla Frecciarossa, che non ci sono mai riuscito? Perché in questo momento non sto lavorando, noi lavoriamo H24 in questo momento. E perché non mettete la radio nel treno, sarebbe bellissimo. È tutto già predisposto, soltanto che ci sono problemi con l'alta velocità. Ah già, è vero, un'alta velocità non ci sentireste. Va bene, grazie. Adesso abbiamo un collega simpatico, Beppe Severgnini, ciao. Buongiorno. Ciao Beppe, ci hai chiamato come mai? Stai in treno? No, perché sono appena arrivato qualche giorno fa da Palermo partendo da Berlino in treno. Una bella avventura. Mi sono divertito un pazzo. Era un'idea del Goethe Institute di mettere uno scrittore italiano e uno tedesco, si chiama Mark Sperle, scrive per Die Zeit, e insieme lui mi spiegava la Germania e il mondo tedesco fino al Brenner, io l'Italia dal Brenner a Palermo. La parte più divertente sarà stata dal Brenner in giù, immagino. Perfetto, esattamente. E la cosa, tra le moltissime cose che posso dire, innanzitutto hai fatto benissimo a toccare questo tema, perché penso che sia il treno sia fantastico non solo per chi fa i nostri mestieri, ma per tutti, perché consente una narrazione. Io ho fatto il viaggio di nozze in Transiberiana fino a Pechino in treno. Mi sono fatto attraverso l'Australia in treno. Dico sempre che se uno ha un dubbio sulla vacanza, vada su un treno, si sceglie un itinerario anche in Europa. Non so perché, ma una cosa volevo raccontare, curiosamente l'hai anticipata con la telefonata prima, sai, avrò il delizioso capotreno, ti racconto cosa mi è successo. Sono meraviglioso, è stata la vera botta di fortuna delle Ferrovie dello Stato metterle capotreno, è cambiato completamente. A sentire cosa, allora, andiamo e da Roma a Napoli c'è una capotreno veramente molto bella. Il collega tedesco mi dice: Beppe, non è una capotreno, è una modella. E lui va: c'è impossibile. Abbiamo parlato con la signorina, dice: no, sono di Napoli, lavoro qua, benissimo. Da Napoli a Lamezia due capotreno bellissime, e io comincio a insospettirmi, finché a Lamezia prendiamo per Villa San Giovanni una sorta di littorina che segue proprio la costa, ancora un po' va in mare, e c'era una capotreno che sembrava Nicole Kidman. Allora l'hanno messa apposta, che sapevano che c'erate voi due, dai. No, ma davvero, questo è il punto. Io poi la stessa l'ho trovata in borghese sul Messina Palermo, che gli ho detto: signorina, cosa ci fa qua? E ha detto: guarda, so che c'è una telecamera sul treno, oggi era in orario e l'ho preso, dimostrando che le ragazze italiane sono intelligenti. Gli ho detto: ma vi hanno messo apposta sul... vi hanno messo apposta? E lei dice: no, assolutamente, io sono la capo, non era mica delle veline, erano delle ragazze. No, ci sono molto belle, questo posso confermarlo, ma mi viene a sospettare che il vostro viaggio di due scrittori in treno era stato un po' preavvertito, e gli uffici stampa vanno dato quello che c'hanno meglio del paniere. Però devo dire, come noi siamo sospettosi, hai ragione, io sono ancora convinto, non me l'hanno confermato, che l'ufficio stampa ha saputo degli orari dei treni e ha semplicemente disposto i turni. Ha fatto un casting, va messo le migliori. Poi devo dire, guarda Beppe, a onor del vero sono tutte molto carine, io le vedo sempre carine e gentili. È una boccata di ossigeno, perché uno è abituato normalmente al ferroviere con i baffi, con l'odore di sigaretta addosso, con le dita gialle, vede queste ragazze deliziose vestite da carabiniere, quindi c'è anche un frisson lievemente perverso, piace molto, e quindi grazie che ci ha ricordato questi momenti fantastici. Melog 2.0. Hai sentito? Che cosa, signore? Odore di femmina. Com'erano, dimmi? Alte? Piccole? Giovani di sicuro, lo riconosco l'odore di acella giovane. Eh? Ciccio, com'erano? Descrivere, per Dio! Non lo so, non l'ho viste bene. Erano due, però. Ma dove ce l'hai gli occhi? Ti piacciono le donne, sì o no? E se ti piacciono, non sai riconoscere se un seno è fatto a pera o a pagnotella, se un culo è alto o basso. Cosa credi, che io soffra perché non posso più vedere i tramonti o la cupola di San Pietro? Il sesso, le cosce, due belle chiappe, ecco la sola religione, la sola idea politica, la vera patria dell'uomo. Il luogo in cui la carnalità esplode nei suoi effluvi più segreti, soprattutto nelle stagioni calde, soprattutto nei treni in cui non c'era ancora l'aria condizionata. Il luogo della carnalità è proprio lo scompartimento del treno, mirabilmente espresso da Gassman, che è il protagonista di un famoso romanzo di Giovanni Arpino, Il buio e il miele. È questo cieco, ufficiale cieco, che viene accompagnato dal suo attendente, che è Alessandro Momo, che è un attore poi scomparso, che è ossessionato dal profumo delle donne. La cecità gli ha acuito il senso dell'olfatto. Lui le donne le sente attraverso il più pregnante la più pregnante delle sensazioni, proprio quella olfattiva, e le sente in un treno, avverte questa sorta di alone, di usta, di scia odorosa e sensuale di una donna. Perché il treno ha questa dimensione erotica, con questi velluti rossi delle tendine, queste acque forti del Piranesi che stanno, ti ricordi, quelle vedute nei vecchi treni, nei scompartimenti da sei, e quindi c'è tutta una dimensione che è riproposta spessissimo anche nella letteratura bassa, pornografica, e anche nei vecchi... Lì nella Città delle Donne, l'avvicinarsi di Snaporaz alla Città delle Donne avviene proprio una sorta di quasi amplesso consumato in un treno. Un treno che poi lo porterà via. Quindi questa dimensione che anche nei vecchi bordelli, nelle vecchie case di tolleranza, c'era la riproposizione dello scompartimento del treno con quello che scorreva fuori, questa sorta di carrello cinematografico permanente che uno vede dal finestrino, che sollecita la fantasia, ti appare il mare all'improvviso. Diciamo che è il movimento del treno, il senso incessante della rotaia è quasi ipnotico, il velluto, l'impregnamento odoroso, il fatto che sei fuori dal mondo, il fatto che ci si muove, ci si allontana, il fatto che ci si sta molto vicini, il fatto che molte volte nei vecchi scompartimenti ci si chiudeva dentro, si tirava la tendina, il fatto che a volte si viaggia di notte, il treno, diciamo, è l'alcova ideale, è il luogo ideale di consumazione di ogni sogno irrealizzabile. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Gianluca, capito a fagiolo perché la redazione non lo sapeva, ma io sono proprio cieco, quindi... Ah, che bello! No, che bello, nel senso è la persona adatta che ci serve in questo momento. Sì, sì, sì, no, per carità. E quindi lei quando va in treno sente l'odore di donna? Diceva la sua collega che sono finito anche in una vagonata piena di prostitute, quindi era anche difficile... È diverso l'odore della prostituta all'odore della brava ragazza? Sì, perché Le prostitute usano dei profumi strani. Lo sa perché, guardi, io lo sa perché tratto con leggerezza questo tema. Io avevo un'amica, avevo tuttora vivente, critica televisiva cieca, la chiamavo e mi raccontava la televisione che lei guardava senza vederla. Quindi si figuri se, sì. Ecco, se per me è di una preziosità unica. Ecco, mi dica la differenza del fluo femminile, cioè la virtù esteriore viene anche tracciata attraverso un particolare odore? Sì, perché non è sensuale quell'odore, nel senso che è fatto per coprire altri odori, è molto fruttato, plasticato, non so bene come definirlo, comunque non ha niente di sensuale, non è quel buon odore che si può sentire. Invece magari la cosa migliore sarebbe l'odore della pelle, la cosa più sensuale è l'odore della pelle, invece viene coperto da questi unguenti. So che la usano anche per esempio per sbiancarsi la pelle o cose del genere. Ah, quindi lei riconosce la prostituta africana la pomata sbiancante che si usa? Sì. Mi ricordo una volta che appunto ero praticamente l'unico italiano, credo, in quello scompartimento. Partivo da Trento, perché io studiavo a Trento, tornavo a casa a Vicenza, davvero una Vicenza, c'era la trasferta. Sì, no, sì. Si cambiano durante il viaggio. Esatto. L'ho fatto tante volte con la tratta. Ecco, e praticamente ero intorno a queste ragazze, io stavo ascoltando le mie cuffiette, infatti una mi tontona, si dice così, mi fa di gomito, io dico sì, dimmi. E dice una frase molto strana che era qualcosa tipo "server giù". E io non capivo cosa volesse dire. Insomma, mi stava chiedendo "sai far su". Si riferiva alle canne, insomma. Ah, sì. Io per ridere ho strappato. Cioè, voleva si dare del fumo, questo? Ecco, a me, non io, però è strano. Comunque, io per ridere ho fatto un filtro con il biglietto del treno usato, no, se il resto arrangiati, gli ho detto. Ah, gli ha fatto il filtrino con la cartina. Esattamente, ma sì, sono tutti eventi piuttosto divertenti questi, perché poi ricordiamoci che il treno porta anche eventi drammatici, comunque, nel senso che risse, gente ubriaca. In quel caso cosa sento? Odore di alcol, di adrenalina, di sangue? Da sangue per fortuna no, non mi sono mai dovuto sentire quell'odore lì, specie il mio, non mi piacerebbe, però di fiato di alcol sì, ricordo un ragazzo albanese molto alterato, senza biglietto, e ho cercato col capotreno di calmarlo perché insomma non era pericoloso, era spaventatissimo, però si sentiva sì l'odore di adrenalina, insomma era qualcosa di molto. Grazie comunque piacere. Riccardo, è stato interessante avere una dimostrazione pratica di ciò che accade negli scompartimenti quando non si vede, quando si sente soltanto gli odori del treno. Giuseppe, tu non hai rivelato la tua biografia, come l'altra volta avevi uno zio barbiere. Adesso, questa volta ammetto, devo confessarlo, mio padre è ferroviere, io fino a 25 anni non ho pagato il treno, ho spaziato in lungo e largo per l'Italia gratuitamente. Devo dire che con grande rammarico e con grande dispiacere, visto che siamo in conclusione, ringrazio Fabrizio Intonti e il caro Rocchetti che sta alla console, non ho potuto assegnare i libri infami e devo dire che erano veramente meravigliosi. Li terremo in serbo per la prossima volta, non ve li siete meritati. Nessuno di voi ha fatto il rumore del treno e quindi nessuno di voi avrà il privilegio del libro infame. 5 di voi invece avranno i 50 libri di Te lo stampo e saranno felici. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.